perché cambiare radio devo commutare, ma commuto solo il commutatore d'antenna perché c'è un ingresso con due uscite e in contemporanea non è che devo stare a attaccare il PL e attaccare il PL, no, devo solo girare A e B, e basta, antenna 1, antenna 2, non devo fare altro. Poi attenzione, io ho la D250 che ne ha 4 ingressi, quindi la G5 regolo passata proprio stamattina sull'ingresso della T250 che mi fa un ingresso, 4 uscite in automatico, quindi anche come accordato l'antenna perché c'è un cavetto, e mi commuta, mi accorda sia 80, 140, 430 e 440. No, sarà T250, adesso lo fanno anche apparare, quanto lo trovi tu quello? Io l'avevo dato e poi me lo sono preso, fortunatamente l'avevo trovato su eBay da un radioamatore di Faenza e me l'hanno fatto pagare 450 euro più il trasporto, è ancora quotato moltissimo la T250, c'è gente che lo sta cercando disperata, considerando il fatto che io ho 440 con l'adattore incorporato, 430 però è come il 140, perché la T250 era nato per il 140, 680 e 430, e quindi chi ha per esempio il 430, il 680 e il 140 deve per forza avere la T250 che è il suo accordatore di linea automatico. Io mi sto cercando di allucinare quello che conosci anche tu, quella persona anziana, quella del mattone, una volta che lo vedo, dammi le 23.000, io sto cercando di intuitivo, ma qua mi serve, perché anche lui adesso si è riaffezionato, perché anche le 23.000 è un bel giocattolino, quello della Magnum. Io ho un 2.000 sotto mano, se ti interessa, ho un 2.000 sotto mano, che è prima delle 23.000, io l'ho avuto le 23.000 e l'accordatore della linea Drake, però io sotto mano ho un MN2000, che è un pochino, insomma, c'ha il variatore un pochino più corto, non ti fa tutte le bande, non accorda il 50 mega per esempio, però è un buon, è una bella macchina quella, una bella macchina, un grandissimo accordatore. Sì. Poi c'è un'altra persona che forse è la versione inferiore del MT3000, quello che mi sembra sia il 1000, se no non so si chiama l'MT1000, non lo so. Questo qui forse se ne vuole disfare, infatti eventualmente ne parliamo. No, MN, c'è l'MN2000 e l'MN3000, che sono della Magnum, e poi l'MN3100. Più grande di tutti che arriva a 3 kW, mentre invece gli altri sono 1 kW e 2 kW, perciò io li ho avuto sia il 2000 che il 3000, nella vecchia stazione, perciò anche le foto le ho fatte vedere, non ci sono problemi neanche balle, però sotto mano mi hanno proposto proprio l'altro giorno un MN2000, che era di una persona che adesso non c'è più e che quindi mi farebbe piacere averla io, anche perché lo conoscevo molto, molto bene. Magari conosciamo le persone, te lo dico, vediamo un po'. C'è anche dell'altra roba, devo solo andare a vedere che cosa gli è rimasto, fare un po' di, insomma, di conti e vedere se si può prendere qualcosa. Anche perché da poco ho portato via tutta la roba di Salvatore, quindi mi sto riempendo nuovamente la casa di radio e di cose. E niente, però se ne parliamo, l'MN2000 è una bella cosa, Sì, io lo so. Vabbè, qua stiamo parlando di apparecchi che te li fanno anche fare una cifra abbastanza rilevante. Vai. Via, sono entrato Claudio, vabbè. Ciao Fabio, avanti qua. E io, comunque, il discorso è quello lì, cioè che io la posso avere questi, cioè io ce l'ho mia stampa, devo stare sempre con questo televisore a tutto volume, alla fine non riesco a ascoltare neanche voi. E niente, le mani 2000, una bella macchina, ti dicevo, sempre della Magnum, che praticamente era stata copiata la linea Drake che ho avuto, ed è un signor accordatore, abbia il carico fittizio, se non sbaglio. Sì, sì, tutti gli quelle macchine lì della Magnum avevano, hanno il carico fittizio. Cioè, anche adesso io ho due riviste vecchie degli anni 70, fine 70, di tutti e due. Del 2000 e del 3000 sono le prove, ma sono apparati costruiti, se non ne guardate più cose del genere, con quei commutatori tutti in argento, bagnati in argento, cioè cose di un certo livello. Ti ricordo che sia le MN 2000 che il 3000 e il 3100 hanno tutto il variatore in come si dice, le bobinette del variatore tutte a titanio, quindi ti ho detto tutto, e poi i variatori sono tutti di quelli dorati, proprio per far sì che la corratura sia proprio giusta, efficiente, senza nessun problema. Capito? Ok, vai Anto. No, mi piace seguire il discorso, fate tranquilli, fate, non ci sono problemi, ascolto, è interessante, interessante. Quindi anche la tua, non è che stiamo parlando di, stiamo parlando di cose già viste, perlomeno io ho viste e usate. Roberto è un grande appassionato di queste cose, quindi giustamente la domanda si risponde. Vabbè, io non è che ne capisco tanto, di ascoltare per cercare di capire meglio. Oh Claudio, dimmi, ma ancora ce l'hai? Tu è quel cos'è, il Sommercamp, quello vecchio bello, molto bello a vedersi. La linea Drake purtroppo no, il Sommercamp sì, la linea Drake l'ho dovuta avere perché le valvole non si trovavano più, l'ultima volta me le hanno procurate in continente, le avevo montate, l'ho usata un paio di volte, perché è un grande sacrificio usare le linee Drake, soprattutto in HF, selettore, selezionare la potenza del valvole, poi fare il preaccordo, prima di uscire ci vuole un quarto d'ora, 20 minuti, quindi mi sono stufato, ho trovato un acquirente, ho rimasto le sempre di fuori, gliel'ho imballata, gliel'ho mandata su, e lui mi ha mandato un base che ti ho detto, monobanda VHF grande, base con le bande laterali, tutto bella, quando vieni la vedi, abbiamo fatto un cambio praticamente, però la linea Drake se ce l'hai la devi usare tutti i giorni, accendere tutti i giorni, farla andare in trasmissione, perché non è importante tenerla in ricezione, perché le valvole sono 4, 2 per il preaccordo, 2 per anzi sono 6, 2 per il preaccordo, 2 per la ricezione, 2 per la trasmissione, quindi se tu non fai andare le valvole si esauriscono, i componenti vanno a farsi fottere, non si trovano pezzi, e quindi giustamente sono stato costretto a darla, mi è dispiaciuto, ma era una cosa troppo bella, l'ho dovuta dare, ma mi è rimasta la foto, c'ho tutte le foto appese qua nella sala radio, di quelle radio che mi sono rimaste impresse. Per il resto insomma anche il 101 digital, quello non si dà, quello è una cosa troppo bella. Ne ho visto uno su Subito, lo stanno vendendo, però è rotto, nel senso accende però non funziona, non trasmette, bello, esteticamente è bellissimo, una fesseria lo stavano vendendo, quando se ne vuoi comprare guai non ne finisci più, quando capita ti faccio vedere una fotografia di materiale sequestrato qua. Di attrezzature che se vado ti metti le mani in testa in trasmissione, tra cui c'è una linea Drake fiammante, apparati di tutti i generi, antenne di tutti i generi, guarda una cosa, la sala ti ammazzano, quando l'ho vista me l'ha fatta vedere questo amico, ho detto dammela che la faccio vedere, c'è da mangiarsene le mani, al macero è andato. Sono beh, purtroppo quando queste cose succedono, l'ho visto anch'io, una volta andare al macero radio di quelle dimensioni e mi stavo per mettere a piangere, però purtroppo quella roba così trovata, riciclata o soprattutto rubata non puoi metterla al mercatino, non puoi prenderla e quindi chiaramente va al macero. Ok, tanto ti rimetto il microfono, io sono entrato perché di mela, e quelle sono robe belle bene. Poi più ne hai e più ne vuoi, cioè inizia ad entrare in quel campo lì, c'è sempre qualcosa di migliore, di più sofisticato, più efficace, eccetera, eccetera. La radiofrequenza è una malattia, diventa, perché poi c'è sempre qualcosa di nuovo, di meglio, e alla fine non esci più. O ti fermi, se no è finito, e poi i radioamatori di un certo livello, quelli si aggiornano ogni anno, si prendono un apparato nuovo. Ha ragione. Molte volte più forte la passione. Io ho questo l'ultimo ricevitore che mi ho preso, ho trovato un'occasione, una buona occasione, e ero anni che lo stavo desiderando, alla fine dopo tanti sacrifici sono riuscito a prenderlo. Però cacchio, solo averlo, ce l'ho qua di fronte, ti fa un'idea, dice, è un'altra cosa, guarda. Io ho già gli altri due dei ricevitori ottimi, niente da dire, chi ce l'ha se li tiene, e molti sono invidiati, cioè da molti è invidiato questo ricevitore Radio 3000, perché è un bellissimo ricevitore, però quando lo metti vicino a questo coso qua, magari il buon di un radiobossismo, un walkie talkie con un baracchino grande, è la stessa cosa. Che avanti? Luca, tu sei? Questo di maletone in bocca, ciao, c'è anche Falchetto, qua dobbiamo andare a mangiare. Ciao Antonio, ciao Romero, ciao Claudio. Qua sto andando alla pizza. Ciao Antonio. Capanoggia, buona pizza, buon tutto, allora, allora lì. Ciao, thanks. Vabbè, sta pure. Tutto a posto, no, che non è più mosso MC60, mica tu, insomma. Vabbè, finito le vacanze. Vabbè, le vacanze mi durano 15 giorni, a parte la sera, la notte, quando andavo lì dopo l'officina, la mattina mi torna. Dimmi una cosa, te con l'affare là ha funzionato tutto bene? Come vuoi, a posto. Nessun problema di nessun genere. Insomma, faccio vuoi. Funzionamento, l'uso, eccetera, eccetera, nessun problema, ho delle buscate manuali. No, a posto, ma non c'è la dentro, però è in inglese. Ah, c'è la manuale, non ci ho fatto neanche il caso, figurati. Ma in inglese. Io adesso sto aspettando per questo ricevitore, ho chiesto un po' di gente, sperando di trovare, perché è abbastanza complicato, ci sono delle funzioni, vabbè, Mario, provando e riprovando ci esce, però se trovi il manuale, Mario, fai più in fretta. Vabbè, non ho capito cosa hai detto. Due albende mi prendo. Perché? Perché così ci ho ascoltato tutte e due. Dimmi la cosa, è questo, ma te lo tiri questo? No, lo prendo. E beh, c'è l'acquirente. Adesso vediamo, non lo trovo. Ehi, hai lavoro con il buono dove non mi sono problema. Aspetta, ma parli di mano che vai in ordine. Ehi. Appunto, la prima stava ascoltando, io non posso aspettare. No. No. No, non mi scordiamo un po' strano. Come diceva nel tempo, dai, la Sardegna 156 420 giorni. Luca, sei troppo alto quello di radio, sai, un po' satura. 156, aspetta, 100. Dove c'è la lettera C, l'hai visto? Guarda un po' adesso. Dove va? Parla normale, fa un passaggio più lungo e mettiti tranquillo alla stessa distanza che ti metti sempre. Tranquillo Roberto, 1, 2, 3, prova. Attento Roberto, guardato, ci ascolti qua, cambio. Prova. Sì, sì, vabbè, poco fa è troppo forte, stavi un po' saturando. Dove sia la lettera C o appena di più? Sotto la lettera C. Questa normalmente chi c'ha il 140 mette a quel livello lì. Comunque va benissimo, poco fa è troppo... Sembra che facciamo il momento fa attaccata la bocca. Vabbè, diciamo che sono troppo attaccato. Comunque va meglio adesso, no? Adesso sei tu. Vabbè, a secondo di chi mi ascolta, capito? Fabio, per esempio, me l'aveva detto niente. Non so, vabbè, io forse perché c'ho l'orecchio, mi piacciono più le modulazioni meno a crepaldura, magari Claudio gli piacciono quelle un po' più forti, però io sto guardando anche il livello qua, è troppo su, cioè a livello, l'indicatore di livello massimo di distorsione è di fisso, ce l'avevi sul rosso, per cui è già al limite, lo avevi abbassato adesso, sta lampeggiando, per cui va bene, come Claudio, ti ho messo esattamente come Claudio. Aspetta Roberto, stavo guardando un link, aspetta, vediamo un po'. Non è questo, no? No. Non è questo. Aspetta un attimo che gli scrivo un amico, non è quello neanche. K, avanti, fa che. K. Siamo qua. No, io ho risposto al telefono. Adesso stavo proprio per entrare, che sono entrato. E così. E tu ricevitore non ne hai, fa che, non ti piace ascoltare. Ascoltare, ma non ho. Non te l'hai fatto duro da di comprarti, di trovare qualcosa a buon prezzo? Piano, vedremo un po'. No, a me piace anche parlare, però mi piace tanto ascoltare, cercare frequenze strane, cose particolari, eh? No, gli scrittori già sono buoni. È bello perché ascolti, sì, anch'io sono del parere che piace ascoltare, capito, ma adesso piano vediamo. Ehi, non vi so problemi. Adesso con questo che ho adesso qualcosina in più riesco a fare. Dai, anche l'altro potevo fare quasi tutto, dai. Però certe situazioni magari è meglio avere questo, che questo è più selettivo, c'ha più sensibilità, eccetera, eccetera, c'ha un bello strumento, quello è tutto digitale, piccolino. Qui invece è un bel rasone, è bello grosso, come piace a me, il manopolone è bello grande, proprio fatto apposta per l'uso mio. È buono. E poi è a 220, non devo stare a attaccarli, va bene, anche questo lo attacco a 220 perché c'ha l'alimentatorino suo, piccolino, tipo i decoder, una cosa del genere, quelli della televisione, c'ha un alimentatorino dietro, però non mi piace, è tutto digitale, il display è digitale, l'indicatore, lo smith è digitale, questo invece è bello grande, a dado, come piace a me. Beh, dipende dai gusti, Roberto. Questo è piccolino, te lo puoi mettere per dire, anche in macchina, te lo porti, lo alimenti a 12 volt con la batteria, e te lo puoi mettere tipo un autoradio, una cosa del genere, un po' più grande. E poi c'ho il portatilino, che è tipo un walkie-talkie, lo stesso, la versione l'R1000 è quello che ti fa un po' meno cose, però va bene lo stesso, quello me lo scendevo al mare così per ascoltarmi qualcosina di lì, tipo bollettino al mare, qualche barca largo, eccetera eccetera. Sono belli ascoltati, belli. Eia. Ci avessi andato Luca, ci sei battuto un colpo. Però mi sentivi giù dal mare, Falchia, ti sentivo piccolino io. Abbiamo portato quella catena base piccolina della Intec, però ti sentivo proprio appena. E io ti sentivo lo stesso piccolo, una volta che ti sei... hai scambiato due parole, sembra che c'era Claudio, così, e ti sentivo piccolo. Sì, infatti, ma se avevi la catena base lui era una mini gran prega. Attaccata alla parabolica, sullo stesso palo alla parabolica, proprio il radiale era in mezzo alla parabolica, infatti è già troppo che uscivo, però diciamo qualche volta, quasi mai, nel senso l'ho usata pochissime volte perché ero sempre impegnato per gli altri dosi, però qualche volta, qualche 10 minuti l'ho accesa, magari qualche collegamento ce l'ho fatto. Buono. Oh, mi hanno chiamato al telefono, mia moglie aspetta un attimino, semmai... se non è roba lunga perché mi hanno dato a capare da gomito per tante 2 ore, aspetta 10 minuti, se arriva entro 10 minuti, se no ti saluto già da adesso. Saluto anche a Claudio, a Luca se rientra, ciao, se ce l'ha fatto, se non mi sa perché allora stavo aspettando la telefonata, adesso dice mi ha chiamato, arrivo, se non vengo entro 10 minuti ti saluto da adesso, ciao Falchia. Ciao Robert. Domani mattina, devo dire, è per un telefono, adesso a volte, vabbè, Alberto, siamo vicini al secondo verso, perché non è la prima volta anche a lui che lo chiamano amici e cose, andare a rimorchiare la macchina che sono rimasto in panne, e allora è difficile. Durante l'ora di lavoro ha detto claro, vado in capo al mondo, ma io quando arrivo a casa come buon che pantaloncini e salatori, a tu vai sci, mi sci e mi balla, e allora spegni il telefono. Io ce l'ho un altro numero, ma non lo chiamo, capito? Domani mattina è stato un urgente, domani mattina ci passo e glielo dico. Positiva. Va bene, va bene, va bene. Ma un po' più altro la mattina l'ho sentito Domenico, verso le 8:25 sono stati. E mi sembra c'era anche Daniele, mi sembra. Sì, sì, c'era un po' fa. Accompagnatoci non solo in Domenico, poi stavamo parlando con Roberto di radio. E allora ho detto parlate che io vi ascolto, ben volentieri, tanto fra un po' ci perdiamo. E quindi abbiamo salutato e basta. Capa di Rogero, andrà bene, andrà bene. Io intanto bisogna parlare anche di cose che possono servirci. Noi Roberto siamo appassionati di queste cose, oggi sentiamo, siamo sempre parlando di strumenti e ballerai. E adesso mi quando, a me a proposito, a che punto siete là? Aveva già salito il castello, già salito. No, a Plotta. La prima avete fatto. Il primo. Primo castello a L, e siamo già arrivati a quota. Adesso domani ne iniziamo a smantellare e a ripristinare i congiuri. Capito? Poi si smonta, si passa dall'altra parte e via dicendo. Perché qua c'è altro che vogliono fare, allora solo il poggiore, e il poggiore faremo. Ci vuole. Ci commetta dalle mondane, a voi di buoni pantaloni. Capito? L'importante è integrare un capo che va a retto. Ah beh, c'è poco ma sicuro. Sono già lo sai. C'è mio collega sempre in agguato, e voi. Figure barzelletti. Io stamattina ero un po' così, perciò avevo la pistola a caldo, cioè con la pistola con gli stichi quelli a caldo. Ah, se mi vogliamo ora appianare un goccio per fare. Allora sono uscito in fretta, la scuola è rimasta qua. Sono uscito in fretta, sono andato allo ferramento, ho preso un tubo di silicone, quello trasparente. C'ho la pistola, l'ho messo dentro, via, mi ha aspettato questo amico in impresa che noi collaboriamo, e lui collabora con noi, quindi noi lo conosciamo molto bene, non poteva negare la cosa e quindi mi ha aspettato e abbiamo fatto tutto, siliconato tutto, mi ha siliconato anche con l'autoscala la finestra fatta in fuori, l'edificio alluminio che ci ha fatto in fuori, sai che batte sul marmo, è meglio sempre siliconarli quelli, allora tanto il silicone era già consumato, quindi mi ha dato tutte due siliconate, visto solo l'autoscala, è chiuso quello, tappato tutto e niente, poi stamattina sono salito su anche, mi sono fatto le antenne, sono tutto a posto, manco ci muovo, manco tirati, bisogna tutto. E adesso dormo un po' più tranquillo, perché se piove rischiamo di fare danno, io ho i connettori NPL, capito? Anzi, sì, NPL, che sono le discese delle antenne, quelle UHF, e quei connettori costano 13 euro l'uno, se si rovinano, costano le palle, buttarci via i soldi, e quindi adesso sono tranquillo. Sì, è tutto peso, ma è normale poi, quando si fa lavoro fatto bene, come Dio comanda, poi non ci pensi più, ecco, tutto lì. Adesso mi prendo un pennello, cioè c'è un pennello, mi prendo la tinta, quella del colore della canala, che è stato grigio, glielo dice, non si deve vedere niente. Adesso trovo pignolo, a me i lavori mi piacciono farli bene, no? gancetti, quei ganci li ho fatti allungare di 20 cm e fare l'altro gancio che entra praticamente nella mancovana, rimane appesa, quindi distanziati dal muro, ed è sempre lì, ferma. Io con lo salgo direttamente sulla scalettina, salgo verso le antenne, tocco i piedi delle antenne, capito? Non ho bisogno di appendermi, lavorare male, lavoro in sicurezza, tranquillo e sereno, senza nessun problema. Posso ispezionare tutto. Sono salito stamattina, mi sono vulcanizzato i BL che sono attaccati alle antenne, quelle VU e anche quella dei 6 metri. Basta, ho finito tutto. Adesso posso affrontare l'inverno tranquillamente senza nessun problema. KK è così. Vabbè, una volta che si è fatto il lavoro, poi si andava pure più tranquilli, senza il pensiero che succede qualcosa, non succede altrove, invece vanno tutto quanto tappato, diciamo, organizzato bene, diciamo bene, la sentita, è andato bene, va bene. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, grazie.